Guten Morgen, MSA. Yeah. Guten Morgen, MSA. Heute schon Facebook gecheckt. Wahrscheinlich habt ihr damals schon mein Gameboy gehackt. Hab das Handy am Ohr, ihr wisst eh, wo ich steck. Ah! L'NSA intercettava anche il governo italiano, rivela l'Espresso. Sotto controllo il cellulare di Angela Merkel. Il ministro degli esteri tedesco convoca l'ambasciatore. Avete sentito la canzone all'inizio in tedesco? Dice buongiorno NSA, verso un incontro tra la cancelliera e Hollande. Immigrazione, il vertice europeo verso l'accoglimento delle proposte italiane. Nuovi sbarchi intanto in Sicilia, chiedono aiuti i profughi siriani arrivati a Milano. Manovra, prime audizioni oggi in commissione al Senato, si parte con Confindustria, intanto l'Aula approva il decreto sull'IMU, dubbi sul peso effettivo delle nuove tasse comunali. Compariranno oggi davanti ai magistrati quattro persone del gruppo che ha assalito e ucciso un ragazzo italiano in Gran Bretagna, nessuna chiarezza sul movente. Non aveva pagato l'IVA perché l'azienda era in crisi, il GUP assolve un imprenditore dall'accusa di evasione, lo ritenete giusto, ve lo stiamo chiedendo sulla nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno. E dunque, buongiorno innanzitutto e benvenuti alle notizie in 60 minuti di Effetto Giorno. Se volete potete commentare sulla nostra pagina Facebook come avete sentito. In apertura della nostra trasmissione vi abbiamo fatto sentire quest'audio, è l'audio appunto di una canzone che si intitola Guten Morgen NSA, perché la notizia di queste ore ovviamente è l'intercettazione effettuata dagli americani ai danni della cancelliera tedesca Angela Merkel. Naturalmente stanno arrivando nuove rivelazioni, come probabilmente ci si poteva attendere e come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, ce lo ha raccontato uno dei membri del COPASIR, il Comitato Parlamentare di Controllo sui Servizi di Sicurezza, Claudio Fava, queste cose, queste intercettazioni avvenivano anche ai danni del governo italiano e degli italiani. Tra l'altro, questa mattina che cosa è successo in Germania? Tutto questo ha generato delle reazioni. Il ministro degli esteri tedesco Guido Westerwelle ha convocato l'ambasciatore americano in relazione allo spionaggio appunto del cellulare di Angela Merkel e a quanto si apprende, non ci sono ancora conferme ufficiali, la stessa cancelliera incontrerà il presidente François Hollande oggi a Bruxelles proprio sugli sviluppi dello scandalo Datagate, quel che riporta l'agenzia France Press. Allora, si parla di altro al Consiglio europeo e tra poco ci arriveremo, però voglio sapere prima di tutto da Enrico Brivio che si trova là se ci sono conferme su questo incontro. Enrico? Sì, pare proprio che ci sarà questo incontro tra Hollande e la Merkel. Diciamo che in questi vertici spesso ci sono poi dei bilaterali, insomma, essendo poi questa notizia insomma abbastanza clamorosa e fresca e avendo coinvolto entrambi i paesi, penso che ci sarà di che discutere, così come si discuterà probabilmente di altre questioni sul fronte economico, dell'immigrazione e dell'agenda digitale. Naturalmente. Pare che ci sarà un faccia a faccia Hollande-Merkel. Proprio su questo tema. Nel frattempo la stessa Viviane Reding, il commissario alla giustizia, dice che è arrivato il momento di dare una risposta forte e univoca dell'Europa agli americani. In effetti possiamo dire sarebbe pure ora, però ti voglio portare su quello che è il tema che forse interessa più strettamente noi italiani ed è la questione dell'immigrazione, perché a quanto pare c'è un sostanziale, si profila un sostanziale accoglimento dell'agenda italiana su questo fronte, Enrico. Sì, c'è stata un'apertura, diciamo che si era partiti dalla prima bozza di conclusione del Consiglio in cui l'immigrazione e i problemi connessi venivano citati in modo piuttosto marginale e non molto approfondito. Invece diciamo che l'ultima bozza di documento è stata messa a punto ieri sera dagli Sherpa, ha accolto gran parte delle proposte italiane che ricordiamo erano per una maggiore attenzione alla condivisione dei costi e delle responsabilità nel pattugliamento delle coste, ma anche nell'avvio insomma di programmi di cooperazione con questi paesi in modo da poter condividere anche il peso insomma di questi flussi. Diciamo che come al solito ci sono delle resistenze dai paesi del nord, però grazie a un lavoro svolto dall'Italia insieme a Grecia e Malta, ma anche con l'appoggio di Francia, Spagna, Croazia e Bulgaria, che forse sono paesi più sensibili di quelli del nord, è stato inserito insomma nel documento un accoglimento che le responsabilità dovranno essere condivise, che quindi ci dovrà essere un principio di solidarietà europeo nell'affrontare questa emergenza, anche se non ci sono cifre di fondi stanziati, ecco, però è già un'affermazione di principio importante. Importante. Grazie ad Enrico Brivio in diretta a Bruxelles, torneremo, inteso come Radio 24, a collegarci con lui nel corso di Europa 24, subito dopo le 14, per tornare a fare il punto. È una giornata, quella di oggi, si parlava di immigrazione, nella quale si sono registrati nuovi sbarchi in Sicilia. Sulle coste italiane continuano gli sbarchi. L'ultimo si è concluso questa mattina. 127 migranti, tra cui 19 minorenni e 63 donne, sono stati intercettati al largo di Lampedusa. È ancora sconosciuto il porto di provenienza, ma è certo che si tratti di cittadini eritrei. Tutti sani e salvi, nonostante le condizioni difficili del mare, spiega il comandante Filippo Marini della Guardia Costiera. Sono stati intercettati inizialmente da una motovedetta della Guardia di Finanza, dopodiché a causa delle condizioni meteorologiche particolarmente avverse, quindi mare 4 e vento da sud-ovest, libeccio, si sono dirette a 7 miglia a sud di Lampedusa due motovedette della Guardia Costiera adatte per operare con qualsiasi condizione di vento e di mare. Le motovedette della Guardia Costiera hanno preso a bordo tutti i migranti e li hanno trasferiti sani e salvi a Lampedusa. È là che li attende l'identificazione da parte delle autorità italiane. Giorgia Witzeman, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Intanto sono più di 200 i profughi siriani in fuga dalla guerra che, dopo aver vissuto accampati in stazione centrale a Milano per giorni, sono stati accolti da due strutture grazie all'intervento del Comune, della Caritas e della Onlus Arca. Governo assente, non abbiamo risposte, dice l'assessore al welfare Pierfrancesco Maiorino. Sentiamo Fabio Pasiani, appunto dell'associazione Arca, al microfono di Valentina Furlanetto. Questi ultimi giorni abbiamo avuto una vera e propria invasione di solidarietà positiva e bella, calda. Tante persone si sono appassionate a questo problema, che certamente non è solo di Milano, ma che Milano ha saputo accogliere veramente con grande calore, con grande solidarietà. Ha senso cosa? Cioè portare degli aiuti, dei vestiti, dei giocattoli, oppure dare una mano concretamente come? Beh, sicuramente possiamo dire coperte, sacchi a pelo, intimo per adulti, tutto quello che riguarda l'igiene dei bambini, quindi pannolini, salviette oppure piuttosto che merendine, ecco, anche questo. E ora le cronache dalla manovra. Oggi iniziano le audizioni al Senato. Nel frattempo l'Aula del Senato ha approvato il decreto sull'IMU. Ci colleghiamo con Alessandra Schepisi, che si trova proprio là, Palazzo Madama. Alessandra, buongiorno. Sì, buongiorno dal Senato, dove innanzitutto diamo la notizia del via libera arrivato poco fa al provvedimento che abolisce la prima rata dell'IMU. Il Senato lo ha approvato con 175 voti favorevoli, 55 i contrari, e il governo, poi riferito il sottosegretario all'economia Baretta, che è intervenuto qui in aula, è al lavoro per evitare che scatti la clausola di salvaguardia inserita in questo provvedimento, che prevede il ricorso a tagli e aumento delle accise in caso in cui le coperture previste non siano sufficienti. Ma intanto qui al Senato la legge di stabilità ha iniziato ufficialmente il suo iter. Oggi prendono anche il via le consuete audizioni, la prima tra pochi minuti quella di Confindustria, poi Rete Imprese Italia, ABI, sindacati, regioni, comuni, province, domattina Corte dei Conti, Istat e Banca Italia. Confindustria che continua a far sentire la sua voce critica sulle poche risorse destinate al taglio del cuneo fiscale, ad incalzare il governo affinché proceda a tagli alla spesa improduttiva. Poco fa il presidente degli industriali Alex Quincy, parlando nel corso del premio Imprese per la Sicurezza, ha precisato che l'impianto complessivo della legge contiene passi nella direzione giusta, ma sono profondamente insufficienti. Una posizione critica espressa del resto anche da CGIL e CISL e UIL. Allora sentiamo il segretario della CGIL, Camusso. E se la ragione della crisi del nostro paese, della perdurante recessione del nostro paese, deriva dal tema dei consumi, bisogna mettere molte risorse sui redditi medio-bassi. Grazie dunque ad Alessandra Schepisi. Veniamo agli scontri politici di queste ore. Ancora crepe nella maggioranza, questa volta intorno alle vicende che riguardano Silvio Berlusconi, mentre continua la discussione a concentrarsi anche dopo le parole di Napolitano di ieri sulle riforme. I nuovi guai giudiziari di Silvio Berlusconi mettono ancora alla prova la maggioranza delle larghe intese, ma anche il Popolo delle Libertà. Il prossimo 11 febbraio l'ex premier sarà processato a Napoli con l'accusa di aver corrotto l'ex senatore De Gregorio per farlo passare dal centro-sinistra al centro-destra, causando così la caduta del governo Prodi. Dopo il suo rinvio a giudizio, arrivato ieri, le indiscrezioni parlano di un cavaliere che starebbe di nuovo meditando di togliere la fiducia a Letta, ma Berlusconi è costretto a fare i conti anche con la faida in corso nel PDL, perché se da un lato il partito ieri si è ricompattato a sua difesa, dall'altro lo scontro fra lealisti e governativi resta forte. A Palazzo Grazioli continuano gli incontri, stamattina quello con il capofila dei Falchi, Raffaele Fitto. L'ultimo scontro fra le due fazioni è andato in scena ieri a Palazzo Madama. 11 senatori lealisti hanno provato a far saltare il disegno di legge sulle riforme istituzionali del ministro PDL Quagliariello. Nel voto finale si sono astenuti, ma la loro imboscata è fallita e il provvedimento è passato per un soffio. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Il punto di Stefano Folli. Ora che i senatori hanno approvato, sia pure per il rotto della cuffia, il Comitato parlamentare per le riforme con poteri costituzionali, il passo avanti è evidente. Entro un anno o poco più potremmo avere, e stavolta sul serio, uno schema di riforme che le Camere poi dovranno solo approvare o respingere. Può non piacere, ma è la cosa più concreta fin qui concepita. Sempre che la legislatura naturalmente non finisca prima, qualora i tormenti giudiziari di Berlusconi vadano a destabilizzare il governo. Resta un punto fondamentale. I parlamentari non possono dormire in attesa che la Corte Costituzionale, fra poco più di un mese, smonti la legge elettorale, il terribile Porcellum. Devono agire prima per non trovarsi con un modello elettorale deciso da altri al di fuori del Parlamento. Lo ha ricordato ieri Napolitano ed è una questione di vera urgenza. Per cui se le Camere non si sveglieranno, è consigliabile che sia il Governo a prendere un'iniziativa. E vi ricordo che, come sempre, tutti i giorni ospiteremo più avanti nel corso della trasmissione una delle persone che sta facendo la staffetta del digiuno insieme a Roberto Giachetti per la riforma della legge elettorale. Sono stati presentati questa mattina dall'ideatore del metodo Stamina Vannoni i dati sulla cura. Sentiamo. Gli esami strumentali, tra i quali ecografie ed elettromiografie effettuati su 32 dei 34 pazienti in trattamento con il metodo presso gli ospedali civili di Brescia, indicano miglioramenti e l'assenza di effetti collaterali, così ha sintetizzato il presidente di Stamina Foundation, Davide Vannoni, nel corso della conferenza stampa indetta per presentare proprio i risultati degli esami relativi ai pazienti in trattamento, dopo lo stop arrivato dal Ministero della Salute alla sperimentazione. 8 le differenti patologie trattate, ha chiarito Vannoni, e tra queste anche la SLA. Nell'esprimere cordoglio per la morte di Raffaele Pennacchio, Vannoni ha chiarito che nei 5 pazienti affetti dalla SLA, la malattia, dopo il trattamento, si è arrestata. Il ministro Lorenzin però insiste, ribadendo l'impossibilità di proseguire con la sperimentazione in Italia. La parola definitiva, spiega la Lorenzin, non l'ho detta io, ma un comitato scientifico composto dai maggiori esperti in materia. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Veniamo ora alle indagini sull'omicidio del ragazzo italiano in Gran Bretagna. Sono 4 gli uomini di nazionalità lituana incriminati per l'omicidio di Joele Leotta, il 19enne italiano originario di Lecco, massacrato domenica sera a calci e pugni nel suo appartamento di Maidstone, nella contea inglese del Kent. Hanno tra i 21 e i 30 anni, sono tutti residenti nella cittadina e facevano parte del gruppo di una decina di persone, tutte fermate, che ha aggredito il giovane fuori dal locale dove lavorava come cameriere, inseguendolo fino nella sua stanza. Dovranno rispondere dell'accusa di omicidio e di quella di lesioni ai danni dell'amico di Joele, Alex Galbiati, sopravvissuto al pestaggio e tuttora in stato di shock. Un'aggressione a sfondo razziale, secondo una prima ricostruzione. Italiani di merda, ci rubate il lavoro, la frase riportata, frase smentita però dalla polizia inglese, che esclude il movente legato al razzismo. Una lite sul lavoro, l'altra ipotesi, uno scambio di persona, l'ultima, la più scioccante, emersa da un post su Facebook. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. In chiusura di questa parte prendiamoci un momento un po' più leggero e tiriamo le somme di questi giorni di Champions League per le italiane. Carlo Genta. Ciao Simone, buongiorno. Ciao. A tutti. Si fa presto a fare le somme, una vittoria in trasferta quella del Napoli, un pareggio buono, interessante, pieno di suggestioni quello del Milan in casa con il Barcellona, e una sconfitta che fa malissimo, cioè quella della Juventus ieri sera a Madrid, con un sacco di polemiche arbitrali, tanto per cambiare, con Chiellini che prima provoca un rigore molto discusso dagli juventini e poi viene espulso, in questo caso l'espulsione proprio non c'era, per un fallo su Cristiano Ronaldo. Una Juventus che ha giocato, secondo me, meglio del Real Madrid, anche in 10, anche in inferiorità numerica. Non è riuscita a far male a sufficienza Real Madrid sotto porta, però insomma, una Juventus che viene, può essere considerata in ripresa. È chiaro che il girone non è facile. Sì, c'era chi scherzava, vedevo ieri su Twitter, insomma, finalmente agli juventini, finalmente ve la beccate voi, insomma, sì. No, l'arbitraggio no, sennò, a sfavore. Sai, ci sono altre cose di questo tipo, come Chiellini, che è stato protagonista al contrario di un episodio analogo, cioè con il Milan, presunta gomitata di Mexès sul petto. Chiellini si tocca il volto, Mexès espulso, 3 giornate di squalifica, un sacco di bufera anche lì, nel senso, chi la fa l'aspetti, ma non so che senso possa avere questo. Semplicemente si tratta di 2 errori che si sommano e non si annullano. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Quando è troppo, ci aspettiamo risposte dagli americani. Così un attimo fa il commissario al mercato interno Michel Barnier su Twitter sullo scandalo Datagate. Sotto controllo il cellulare di Angela Merkel, si è appreso ieri. Il ministro degli esteri tedesco convoca l'ambasciatore statunitense e si è appreso poco fa che l'NSA intercettava anche il governo italiano, secondo le rivelazioni dell'Espresso. Immigrazione. Il vertice europeo che si svolge oggi, a margine si parlerà anche del Datagate, va verso l'accoglimento delle proposte italiane. Ci sono nuovi sbarchi intanto in Sicilia e i profughi siriani arrivati a Milano chiedono aiuti. Non aveva pagato l'IVA perché l'azienda era in crisi. Il GUP ha assolto un imprenditore dall'accusa di evasione. Tra poco parleremo con gli avvocati. Intanto vi chiediamo sulla nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno se lo ritenete giusto. E adesso noi torniamo alla manovra, torniamo a parlare di manovra in questo primo punto di approfondimento. Saluto, lo abbiamo inseguito ieri un po' tutto il giorno. Allora, prima lo volevamo avere alle 13, poi abbiamo provato ad averlo in Focus Economia, ma era là in mezzo con Napolitano e Letta e quindi comprensibilmente non siamo riusciti a beccarlo. Guido Castelli, sindaco di Ascoli, delegato alla finanza locale dell'ANCI. Buongiorno. Buongiorno, mi scuso per ieri. No, ma figuriamoci, nessun problema. Cioè, Napolitano, Letta, Fassino, insomma, capisco. Allora, io la domanda che le voglio fare è molto semplice, perché sono giorni che stiamo discutendo sulle cifre fornite dal governo in merito al famoso TASI, alla TASI, insomma la tassa, il tributo sui servizi indivisibili, nel quale voi avete la possibilità come comuni di metterlo tra l'1 per 1000 della rendita catastale, se non erro, che è il minimo, al 2,5 per 1000. Ora io voglio capire da lei, dato che i calcoli che sta facendo il governo sull'effetto fiscale della manovra si basano sull'1 per 1000, se secondo lei quanti comuni sono effettivamente in grado, non le chiedo la cifra precisa ma un'idea di massima, quanti sono in grado di tenere l'aliquota minima? Ma guardi, in realtà è uno studio che anche noi stiamo facendo, perché vogliamo avviare con il governo un rapporto franco, anche i gruppi parlamentari. Per noi sono importanti 2 questioni, e riteniamo le assicelle oltre le quali è impossibile andare. Da un lato che i comuni possono avere anche per l'anno 2014 lo stesso stock di risorse di cui potevano disporre nel 2013. Questa è la prima cosa. La seconda questione è che se le attuali aliquote non dovessero essere sufficienti, comunque deve essere lo Stato e non certo i comuni a fare in modo che vi siano le condizioni per un rifornimento aggiuntivo di risorse da parte dello Stato. Cosa voglio dire? Che nelle pieghe della legge finanziaria c'è 1 miliardo che lo Stato nazionale ha messo a disposizione dei comuni per fare in modo che vi sia una, come dire, possibilità di non aumentare la pressione fiscale a carico del contribuente, per evitare l'effetto split, ovvero la valutazione che rischia di essere verosimile, secondo la quale da una IMU sulla prima casa uscita dalla porta si ripresenta una service tax che rientra dalla finestra. Questa è la cosa che dobbiamo assolutamente, per ragioni proprio di serietà politica generale, evitare. Basta 1 miliardo per evitare che si produca l'effetto surreale. Ecco, su questo abbiamo qualche dubbio, ci vorrà probabilmente qualche risorsa in più. Ci dà un'idea di quante risorse ci potrebbero volere? Io credo fra i 4 e gli 800 milioni, nel senso che sono valutazioni... No, mi scusi, non ho capito, tra i 4... Fra i 400 e gli 800 milioni. In più rispetto a quel miliardo? Rispetto al miliardo. È una valutazione, ripeto, nasometrica, e quindi non ci conterei più di tanto, però... Nasometrica, nasometrica è stupenda. Da dove la tiro fuori questa somma? Sono le somme che nel 2013 sono state riferite alle agevolazioni fiscali sull'IMU prima casa, sono i famosi 200 euro di franchigia prevista per tutti e i 50 euro per ogni figlio fino a 26 anni. Perché faccio questo discorso? Perché comunque sia noi dobbiamo cercare di evitare che coloro i quali dal regime IMU prima casa ricavavano un beneficio oggettivo, ovvero erano sotto queste cifre, i 200 euro più 50 euro per ogni figlio, possono con la service tax insomma pagare pegno, non sarebbe giusto. Però io ritorno alla domanda iniziale, chiedo di essere brevissimo. Prego. Ritorno alla domanda iniziale, vista la condizione di finanziaria dei comuni italiani che lei ha benissimo presente, ma le sembra davvero probabile che tutti la tengano all'un per mille? Sono 8.000 rotti e quindi hanno situazioni molto diverse. È evidente che la leva fiscale potrebbe essere esercitata anche fino al concorso del 2,5 per mille, questo è molto molto probabile. Poi sarà ai comuni, dice il governo, poter produrre dei vantaggi alla comunità, ma questi vantaggi sono solo ipotetici se non c'è una dotazione più robusta di quel miliardo. Ecco, il quadro è questo: se rimane 1 miliardo è molto molto probabile che vi sia necessità di ritoccare la leva. Grazie Guido Castelli, sindaco di Ascoli, delegato finanza locale del Lanci, per essere stato con noi. Buona giornata. E noi torniamo al Datagate. Ce l'abbiamo la musica sotto mano, Gianmarco Ferronato, la versione lunga di quella che abbiamo fatto sentire all'inizio? No? No, non ce l'abbiamo sotto mano, e pazienza. Vito Crimi, senatore del Movimento 5 Stelle, membro del COPASIR, il Comitato Parlamentare di Controllo sui Servizi di Sicurezza. Benvenuto. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Allora, grazie, mi ha dato il benvenuto anche a me. Io ero già qua, comunque va bene. Senta una cosa, allora, emerge adesso rivelazioni dell'Espresso che arrivano da Greenwald, che è il giornalista che ha raccolto le dichiarazioni di Edward Snowden. Anche il governo italiano era sotto controllo dell'NSA, ma solo il capo dei servizi e Minniti, il sottosegretario con delega, queste cose ve le hanno mai dette? Allora, premetto che ovviamente per la riservatezza e la segretezza delle informazioni, che, diciamo, dei vincoli che abbiamo come comitato, non posso riferire ogni cosa di quello che viene svolto all'interno dell'attività. Vada sulle linee generali. Però, allora, credo. Vi dico quello che è anche la dichiarazione che abbiamo fatto ieri. Fin dal principio ci è stato escluso categoricamente qualunque tipo di coinvolgimento dei nostri servizi. Coinvolgimento vuol dire anche conoscenza di fatti di questo tipo. Anzi, proprio il senatore Minniti ha precisato che hanno la ragionevole certezza, queste sono le parole utilizzate, che non siamo coinvolti in questa raccolta di dati. In realtà questa, come considerazione ovviamente nostra, abbiamo fatto, noi abbiamo la ragionevole certezza che invece siamo coinvolti nella raccolta di dati, ma per questo credo che non ci fosse neanche bisogno di andare a cercare delle prove, ma è veramente impensabile che l'attenzione rivolta per esempio alla Francia sia un'attenzione rivolta alla Francia per un motivo legato al paese specifico, ma rientra appunto nel più grande, globale meccanismo di raccolta di dati, la cosiddetta bulk collection, cioè in sostanza gli Stati Uniti raccolgono questi metadata, che tra l'altro non so neanche i contenuti delle comunicazioni. In realtà sulla Francia, si sa anche di raccolta di contenuti, insomma, e quindi... Certo, no, poi iniziano con questo, cioè la raccolta dei metadata è una raccolta che non ormai è abbastanza risaputo, diciamo, ormai sembra... cioè, quasi scoprire l'acqua calda di tutto il pianeta, cioè c'è niente da fare, considerando che in ogni caso loro hanno accesso diretto ai provider. Questo è Crimi, mi scioglie un dubbio, mi scioglie un dubbio. Allora, noi abbiamo avuto due versioni diverse, abbiamo ospitato prima Claudio Fava e poi Giacomo Stucchi, che è il presidente del Copasir, e abbiamo avuto due versioni diverse su questa visita a Washington che avete fatto e nella quale c'era anche lei. Fava ci ha detto, a noi ci hanno fatto chiaramente capire che intercettazione e raccolta di dati a strascico, come veniva fatto per la Francia, sono state fatte anche per l'Italia, e ci hanno detto abbastanza chiaramente che i nostri servizi sapevano. A voi, a Washington, che vi hanno detto, Crimi? Ce lo dice lei? No, le dico la verità, adesso non mi sembra di che ci sia stato detto che i nostri servizi sapevano, anzi assolutamente no, non ci è stato escluso qualunque coinvolgimento dei nostri servizi, quindi assolutamente no. E la raccolta strascico ve l'hanno confermato? La raccolta strascico hanno chiaramente, candidamente ammesso che la fanno, punto, e non la fanno escludendo l'Italia per qualche motivo. Esistono dei programmi che ormai sono palesi, il programma DataGate, in realtà il PRISM, che poi ha una sigla ben precisa, FA702, hanno la loro denominazione, risoluzioni quindi congressuali, loro sono autorizzati di fatto dal loro governo a farlo, per cui loro possono svolgere sulla base dell'autorizzazione che hanno, senza alcuna autorizzazione specifica, raccolta massiva di dati su cittadini stranieri. Questa è, perché chiaramente uno Stato come gli Stati Uniti tutela la privacy, tutela la privacy nei limiti di quello che ritiene ovviamente privacy il governo statunitense, quindi fa un equilibrio tra privacy e sicurezza nazionale, però legata ai propri cittadini. Sui cittadini stranieri chiaramente il governo statunitense si guarda bene dal mettere in campo qualunque tutela della privacy. Questo, diciamo, abbastanza. Allora, sui nostri servizi io le dico che tra l'altro viene battuta l'agenzia adesso che Greenwald dice i servizi segreti italiani hanno avuto un ruolo nella raccolta di metadati. Guardi, io lo escluderei dalle informazioni che abbiamo, però qui apriamo un altro capitolo, se mi permette. Prego. Che è il Copasir, e le fa comprendere che cosa abbiamo davanti. Noi siamo un comitato parlamentare di controllo che ha delle armi spuntate, nel senso che il nostro comitato, e questo è da denunciare assolutamente, è un comitato che ha come unico strumento di controllo il controllato e le audizioni dei controllati. Quindi io quello che le dico ovviamente si basa esclusivamente sulle informazioni che mi possono giungere dal controllato, del quale mi devo fidare perché non ho altre alternative, ed è uno, o dalle informazioni fatte da un'analisi che dobbiamo farci singolarmente come singoli componenti, e non avendo una struttura di analisi autonoma, delle informazioni che si prendono dal, diciamo, Crimi, open source. Crimi, la tengo su questo. Crimi, è chiarissimo. La tengo e le chiedo molto brevemente, perché siamo quasi in chiusura di questo spazio, e la tengo su questo tema. Lei chiede accesso direttamente ai documenti dell'intelligence? Almeno su questo tema? Chiede accesso a quali documenti dell'intelligence? Capisce che è un problema? Cioè, nel senso, io posso chiedere accesso a tutti i documenti dell'intelligence qualora sapessi quali documenti chiedere accesso. È il problema che abbiamo. Ma lei darebbe al Copasir l'accesso su tu? Lei darebbe, no, allora, ho capito, però lei darebbe al Copasir... io posso chiedere accesso, le spiego, le dico, io posso chiedere accesso ai documenti dell'intelligence che riguardano il caso. E nella risposta mi viene detto no, perché noi non ci siamo mai interessati, non esistono documenti di questo genere. A questo punto io che armi ho, che strumenti ho, che prove ho per dimostrare il contrario? Che potere darebbe? No, io voglio il documento protocollo X. Mi dica che potere, mi dica che potere darebbe al COPASIR, brevemente, 10 secondi. Assolutamente, il primo potere che bisogna dare è che bisogna che il COPASIR approvi i bilanci dei servizi per programmi preventivamente, cioè il COPASIR ogni programma, quindi anche un programma eventuale di collaborazione con gli Stati Uniti sul Datagate, dovrebbe essere preventivamente approvato dal Comitato parlamentare, così come succede negli Stati Uniti, che è un altro tipo di struttura, però per esempio i comitati, se il programma PRISM degli Stati Uniti è stato approvato dai comitati parlamentari. Grazie. Venisse messo in atto. Grazie Vito Crimi, senatore del Movimento 5 Stelle, membro del COPASIR, con un po' di ritardo, c'è la pausa, poi c'è la borsa e poi ci ritroviamo e parliamo con l'avvocato dell'imprenditore assolto, non ha pagato l'IVA a causa della crisi. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. I servizi segreti italiani hanno avuto un ruolo nella raccolta dei dati da parte dell'NSA, lo dice all'Espresso Glenn Greenwald, il giornalista che custodisce i file di Snowden. Sotto controllo il cellulare di Angela Merkel, il ministro degli esteri tedesco convoca l'ambasciatore. Immigrazione, il vertice europeo verso l'accoglimento delle proposte italiane, nuovi sbarchi intanto in Sicilia, chiedono aiuti i profughi siriani arrivati a Milano. Compariranno oggi davanti ai magistrati 4 persone del gruppo che ha assalito e ucciso un ragazzo italiano in Gran Bretagna, nessuna chiarezza ancora sul movente. Manovra, prime audizioni oggi in commissione al Senato, si parte con Confindustria, aumentare la forza d'urto e il taglio del cuneo fiscale, dice il presidente Giorgio Squinzi. Intanto l'Aula approva il decreto sull'IMU. E allora, adesso avrei voluto parlare con l'avvocato, ve l'avevo annunciato poco fa, che dell'imprenditore che è stato assolto, non aveva pagato 180.000 euro di IVA, è stato assolto perché l'azienda era in crisi, è stato assolto dal GUP. Ma purtroppo il tempo a nostra disposizione è scarso, quindi vi rimando a Focus Economia, oggi vi tocca Focus Economia con me anche oggi, dove sentiremo, faremo una breve intervista con l'avvocato. E adesso invece ci occupiamo del perché. Ieri, avete sentito adesso gli aggiornamenti di borsa, oggi un parziale rimbalzo, ci occupiamo del perché ieri le borse sono andate così male. Come sapete la Banca Centrale Europea, come avrete letto, la Banca Centrale Europea ha iniziato a programmare gli stress test, ossia la condizione, un controllo sulla condizione dei bilanci delle banche. Abbiamo chiesto a Moria Longo del Sole 24 Ore di fare un punto, poi ampi dettagli e indicazioni su tutto questo li trovate sul sito del Sole 24 Ore, naturalmente sul Sole 24 Ore, oggi in edicola. Sentiamo. La Banca Centrale Europea ha dato il via al grande check-up per misurare lo stato di salute delle 130 maggiori banche europee, 15 delle quali italiane. Si tratta del passo preliminare necessario per passare tra un anno alla vigilanza degli istituti di credito dalle banche centrali nazionali alla BCE. Il grande check-up, secondo le prime indicazioni date ieri ufficialmente da Francoforte, dovrà far emergere i punti deboli o poco trasparenti di tutte le banche, anche quelle dei paesi virtuosi. La BCE, insomma, cercherà gli scheletri in tutti gli armadi. Questa forse è la maggiore novità annunciata ieri. Il check-up andrà a valutare i punti deboli delle banche italiane e spagnole, certo, zavorrate da troppi crediti deteriorati e da troppi titoli di Stato nazionali. Ma analizzerà anche, con severità, i punti dolenti delle banche tedesche o francesi, i cui bilanci sono zeppi di titoli tossici o di derivati speculativi. Il problema è che ieri la BCE, pur annunciando severità in questi controlli, non ha detto quali parametri utilizzerà. Non ha insomma posto l'asticella per capire su ogni voce dei bilanci bancari chi sta bene e chi invece è sopra i limiti. Questo è un problema perché le asticelle saranno probabilmente poste in seguito a trattative con le banche centrali nazionali, ognuna delle quali cercherà forse di ammorbidire i criteri che valutano i punti deboli delle proprie banche. E poi non è stato ancora fatto molto per armonizzare le regole. Oggi le banche europee giocano infatti sullo stesso tavolo da gioco, cioè tra l'Europa, ma con regole molto diverse da paese a paese. Questo falsa la concorrenza. Ebbene, ieri la BCE ha iniziato un processo di trasparenza, ma l'ha solo iniziato. Speriamo che le lobby e la politica non l'annacquino strada facendo. Moria Longo, Radio 24, Sole 24 Ore. E siamo al nostro appuntamento quotidiano con chi sta facendo la staffetta del digiuno insieme a Roberto Giachetti, che appunto sta digiunando ormai. Laura Faggin, da qua, ah, eccolo qua, dal 18° giorno di sciopero della fame, ha perso circa 6,5 kg. C'è questa staffetta del digiuno, gente comune, politici che per un giorno decidono di digiunare in solidarietà con Giachetti, che chiede il cambiamento della legge elettorale. Che abbiamo in linea oggi? Buongiorno, sono Raffaele Pizzati da Salso Maggiore Terme. Che mestiere fa? Portiere di notte. E come mai ha deciso di scioperare un giorno, di fare lo sciopero della fame per un giorno? Ma anche perché l'anno scorso ero uno dei temerari che aveva dato la solidarietà a Roberto Giachetti tra l'indifferenza generale dei politici e purtroppo anche dei media. Infatti sono veramente felice della sua idea, della sua trasmissione che dà voce proprio alla lotta non violenta di Roberto. E come mai questa decisione, brevemente, Pizzati? Sì, sì. Ma proprio perché mi sembra paradossale che un paese come l'Italia non abbia una legge elettorale che consenta a noi cittadini di poter scegliere i nostri rappresentanti al Parlamento. Ovvio che la legge elettorale non è la panacea di tutti i mali, ma ovviamente potendo scegliere i nostri parlamentari preferiti e avere una legge elettorale che consenta una stabilità non dettata da larghe intese, ma proprio per un procedimento elettorale, sarebbe una cosa gradita agli italiani, forse anche ai paesi esteri che dovrebbero investire poi in Italia. Grazie a Raffaele Pizzati, buona giornata. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. NSA intercettava anche il governo italiano, rivela l'Espresso. Immigrazione, il vertice europeo verso l'accoglimento delle proposte italiane. Manovra, prime audizioni oggi in commissione al Senato. Si parte con Confindustria. È il momento di America 24 con Mario Platero. America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24. Buongiorno Simone da New York, Mario Platero. Good evening. Guten Abend. Michelle and I are honored. Il presidente Barack Obama si è scusato con Angela Merkel, l'ha rassicurata: non stiamo intercettando le sue telefonate, le tue telefonate, cara Angela, né le intercetteremo. Beh, una presa di posizione rassicurante dal punto di vista della Casa Bianca. Il portavoce Jay Kerney ha detto che i due leader hanno parlato amichevolmente. In realtà sappiamo che la telefonata è stata piuttosto tesa, la signora Merkel è molto seccata. Il fatto che gli Stati Uniti, come dire, si permettano di intercettare le telefonate di uno degli alleati più affidabili degli Stati Uniti d'America ha colpito e ha naturalmente imbarazzato lo stesso Barack Obama. È chiaro che questa intercettazione presunta, che può essere avvenuta nel passato e chissà quante altre ce ne sono state, magari anche per i nostri leader, fa parte del contesto generale dello spionaggio della National Security Agency, dello scandalo Snowden, per cui ogni tanto viene fuori qualcosa. Però, ripeto, due cose mi hanno colpito. La prima, appunto, nonostante Barack Obama dica ma io posso chiamare in qualunque momento i leader, non ci sono problemi, poi in realtà viene fuori che l'America li stava intercettando e come. La seconda, diciamolo, ma insomma la Germania è, come dire, il simbolo della perfezione tecnologica, ma possibile che non ci fosse una protezione, una crittografia, un'impenetrabilità dei telefonini della signora Merkel? Lo sappiamo che ci sono le spie, ci sono gli hacker. Ecco, quindi si apre, come dire, un interessante serie di quesiti. Io ho con me ai microfoni di America 24 per chiacchierare proprio di questo Maurizio Molinari, amico, collega, autore di un libro appena uscito in Italia, L'Aquila e la Farfalla, perché il XXI secolo sarà ancora americano, pubblicato dalla Rizzoli, E l'America, che sappiamo essere aquila, è anche farfalla, è agile, si muove, e dunque il XXI secolo avrà bisogno di continui adattamenti. L'America è maestra in quello. C'è però un problema. Maurizio, siamo davanti a un'aquila impazzita che forse non consentirà alla farfalla di librarsi in volo? Siamo di fronte a un'aquila sfidata da Edward Snowden e i segreti che ha portato con sé, affidandoli a Glenn Greenwald, il giornalista ex del Guardian, ora divenuto protagonista di una nuova avventura digitale che li sta distribuendo al fine di creare imbarazzo agli Stati Uniti con tre suoi maggiori alleati: la Francia, il Brasile e la Germania. L'imbarazzo glielo crea, e come? Perché insomma, nel momento in cui si scopre che certe cose succedevano davvero, beh, non è giustificabile dire: ma sai, sì, però li ha traditi un loro dipendente. E, insomma, non è carino. Forse che gli Stati Uniti potranno continuare ad essere grande potenza del XXI secolo perché spiano i loro alleati, perché non si fidano più di loro. Qualche dubbio c'è, o sbaglio? Gli Stati Uniti sono destinati a essere la potenza leader del XXI secolo per ragioni che esulano dalla Casa Bianca come da Wall Street, dall'information technology fino all'indipendenza energetica. La questione dello scandalo del Datagate crea imbarazzo perché spiazza il presidente, svelando ai suoi alleati i segreti dello spionaggio elettronico, che è l'arma più segreta a disposizione dell'arsenale americano. Fino adesso la risposta che ha dato Obama personalmente, esattamente come Carney ha detto nel suo intervento, il presidente ripete ai leader feriti di Francia, Brasile e Germania che c'è una riforma in arrivo. Il punto è che l'orizzonte di Obama per la riforma è marzo, mentre questi leader chiedono risposte immediate. Ecco Maurizio, però mi sembra che tu implicitamente sei d'accordo sul fatto che le intercettazioni, visto che si usa il presente e il futuro sia nelle dichiarazioni di ieri Jack Carney sia nel comunicato di ieri alla Casa Bianca, beh, non si usa il passato, vuol dire che ci sono state. Sì, l'impressione è che ci sono state. Il vero interrogativo è se le hanno fatte solamente gli americani o anche gli altri. A volte, ad esempio, eravamo assieme, Mario, in Germania durante la visita di Obama proprio alla Merkel, e Obama disse che noi non siamo gli unici a farlo, ma siamo gli unici a discuterne. Quindi sicuramente ci troviamo di fronte al fatto che apprendiamo che alcune potenze sono in grado di intercettare le comunicazioni più segrete delle altre. Ecco, devo dire, mi ha colpito perché una volta, proprio ieri, un altissimo funzionario della Casa Bianca mi ha detto: beh, quando siamo andati a Parigi abbiamo trovato delle cimici nella camera d'albergo del presidente, quindi i francesi evidentemente ci hanno provato, però abbiamo il nostro sistema di controspionaggio. E questo è l'altro punto. Ma insomma, possibile che la Germania non sia in grado di proteggere i telefonini della cancelliera di modo che nessuno li possa penetrare? Questo è un punto interessante. Probabilmente gli Stati Uniti sono riusciti a sviluppare un sistema elettronico di attacco, di penetrazione delle difese avversarie, in grado di violare tutti i sistemi di sicurezza fino a questo momento esistenti. L'interrogativo, ripeto, però, è se i cinesi e i russi ce l'hanno anch'essi. Maurizio, ma cosa avranno trovato di interessante o di piccante secondo te in queste intercettazioni della Merkel? Ma io siamo stati spesso assieme ai vertici internazionali. La mia impressione è che quando si svolgono, il capo di governo degli Stati Uniti, cioè il presidente, ha interesse a sapere in anticipo le posizioni dei suoi interlocutori su temi di dispute commerciali, di dispute economiche o temi politici delicati come possono essere le sanzioni all'Iran o l'intervento in Siria. Lo spionaggio elettronico consente all'intelligence americana di informare il presidente su cosa pensano i suoi interlocutori. Quindi in sostanza l'utente ultimo della NSA è il presidente. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Seguiteci su america24.com, su Twitter, @MarioPlatero, ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, abbiamo parlato dell'aquila e la farfalla e noi vogliamo pensare che l'America sia davvero più una farfalla che un'aquila, e dunque dedichiamo la canzone del giorno ai Weezer, rock band californiana con Butterfly. Yesterday I went outside with my mama's mason jar, caught a lovely butterfly. When I woke up today, looked in on my face, E oggi, caro Mario, oggi non riusciamo a sentircela tutta. Dobbiamo chiudere. Grazie a Gianmarco Ferronato in regia, a Laura Faggini in redazione, tutta la redazione di Radio 24. Effetto Giorno torna domani alle 13. Noi ci risentiamo tra un attimo con il GR e poi con Focus Economia alle 17.